perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Non so se si è capito, ma camminare sul filo è la vita, come dice la nostra presigla. Qui ai Funamboli, cara Veronica Gentili, buongiorno, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, alle 9:09, siamo pronti per una nuova puntata. Guarda che oggi abbiamo dei temi che appassioneranno i nostri ascoltatori, che invitiamo subito, se volete, a chiamare, dite su che argomento. E adesso ve lo diciamo, 800 24 00 24. E invece per i WhatsApp, cara Veronica, dai, vediamo se sei pronta. Allora, al 349 238 6666. Ragazzi, non mi hai colto impreparata, no, nemmeno stamattina. Fantastica, c'è anche la mail funamboli@radio24.it. Allora, oggi partiamo, cara Veronica, a parlare di abusivismo edilizio, un tema sul quale torniamo ogni tanto, perché abbiamo delle storie molto belle anche, che ci pongono delle problematiche da raccontare. Ma soprattutto molto funamboliche, secondo me, perché le storie che andiamo a raccontare oggi raccontano proprio come si può approcciare la questione dai due lati opposti, da un lato all'altro della fune, per vedere se si riesce a passarla. Esatto, oggi tra l'altro segnalo su questo tema Gian Antonio Stella, una bella pagina sul Corriere della Sera, racconta quello che sta succedendo in Sardegna, dove c'è un vero e proprio scontro istituzionale tra la regione e il suo piano anche per l'edificazione delle coste sarde, piano contro il quale si è espresso in maniera molto dura il sovrintendente Fausto Martino, che è contrario a questo piano. E la regione dice: il sovrintendente non interferisca nei progetti della giunta. È una pagina molto intensa per raccontare insomma che cosa succede sulle coste, tra le più belle. C'è sempre il problema delle costruzioni sulla costa, no? Che in realtà viene completamente così sradicato il senso del paesaggio sardo, oppure no? E quindi scattano delle polemiche infinite. Eh sì, e non escludo che prima o poi il sovrintendente sarà ai nostri microfoni. Noi ci terremo moltissimo, perché può raccontare davvero un approccio interessante di questa vicenda. Ma cara Veronica, i numeri li abbiamo dati, partiamo appunto nel raccontare alcune storie belle. Allora, siamo pronti, 349-238-6666, come vi ha detto Veronica Gentili, per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi. Intanto, cara non Vero... Non ti fidavi, l'hai ripetuto, l'hai ripetuto. No, perché lo ripeto, così la gente lo memorizza e arriva a casa dalla moglie o dal marito e dice: come stai? 349-238-6666. Allora, vogliamo intanto salutare un sindaco che è un ex sindaco e che si è battuto tantissimo contro l'abusivismo edilizio e per questo ha subito minacce, è stato sotto scorta e forse per questo è decaduto, e quindi è anche una storia di sconfitta politica, se volete, o non lo so, lo chiederemo a lui. È Angelo Cambiano, che è l'ex sindaco di Licata, buongiorno, in provincia di Agrigento. Buongiorno a voi. Grazie Cambiano di essere qui. Però, il cara sindaco Veronica, è stato uno degli eroi dell'estate, lo vogliamo dire. Eh sì, è il sindaco che ha deciso, su ordine della procura, di dire: abbattiamo le case abusive. Questo gli ha procurato non pochi problemi. Non pochi guai, ma uno dei pochissimi sindaci, mentre qui imperversano le polemiche attorno ad un abusivismo di necessità, abusivismo consenziente da parte della politica, e il sindaco di Licata, Cambiano, ha spiccato in questo scenario, insomma. E questo sì. Però sindaco, la chiamiamo ancora così, o forse professore, perché è tornato a fare il professore di matematica, che è la sua professione. Ascoltiamo questa storia che ci racconta Gabriella Turchetti, che salutiamo. Buongiorno signora Gabriella. Buongiorno a tutti voi. Perché io di fronte a questa storia che adesso racconteremo, sinceramente, ecco, tutte le mie certezze, i miei dubbi, le certezze sono crollate, i dubbi sono affiorati. Lei è la figlia di Giuseppa Fattori, 95 anni, giusto? Sì. Siamo a Fiastra, sì, in provincia di, sì, Macerata. Esattamente. Uno dei comuni del cratere sismico. Terremotati, quindi, chiaro. Sì, il borgo dove viveva mia madre è stato completamente distrutto dalla scossa del 30 ottobre. Certo. E quindi noi abbiamo ovviamente portato via mia madre, che è stata un po' a casa mia, un po' a casa di mia sorella, ma la nostalgia struggente per il suo paese, per i suoi monti, ha fatta tornare. È stata tale, sì, da farla tornare. È tornata in una casetta, di quelle temporanee, solo che è stata costruita secondo le leggi in maniera abusiva, cioè mancava una casetta di legno, una casetta di legno, mancava che cosa per renderla regolare? Allora, intanto devo dire che il comune di Fiastra è uno dei comuni del Parco dei Sibillini. Sì. E quindi è soggetto, purtroppo perché ci siamo incappati in questa vicenda proprio a causa delle normative, dei legacci al vincolo parco paesaggistico. Però, insomma, esattamente, se non parlo, chiaro, quello forse è sono, proprio sono quello giusti, che ha creato, che sta creando questi grandi questi ostacoli, problemi. Cioè mancava un'autorizzazione di fatto per renderla in maniera brutale. La casetta era abusiva nel senso che c'erano dei rallentamenti molto grossi per avere i permessi, allora, o vi erano stati negati? Allora la casetta è stata edificata su un terreno, su un'area edificabile appunto. E quindi diciamo che noi siamo partiti dall'erronea convinzione che, facendo un percorso a ritroso, in quanto, sì, seguendo l'iter normale e i tempi di attesa per tutti i pareri sarebbero stati, sì, troppo lunghi, e quindi siamo partiti da questa erronea convinzione. Ovviamente per ragioni umanitarie, perché mia madre, certo, è tornata vivendo in un container. Ecco, però signora Gabriella, il punto fondamentale, la notizia che ha reso, sì, come dire, anche la notizia meritevole di essere raccontata, è che sua madre a un certo punto è stata sfrattata, cioè è stata riconsiderata la casetta abusiva, e quindi una donna di 95 anni è stato dato l'ordine di sfratto. Quindi sì, voi avete avuto 15 questo... giorni di preavviso, esatto? C'è stato questo, c'è in atto un sequestro giudiziario della casetta, sì, e lo sfratto sarà esecutivo fra pochi giorni, perché è stata appunto data una proroga di 15 giorni. Ecco, si fermi qui perché, cioè, per il momento, sì, aspetta Veronica, sentiamo l'ex sindaco di Licata, poi torniamo, sì, da Gabriella Turchetti. Cioè tante volte si parla di abusivismo di necessità, un'espressione che fa orrore a molti, sulla quale abbiamo fatto molta, chiaro, ironia, però di fronte a una casa abusiva di fatto, come la si voglia pensare nei parco dei Sibillini, però non aveva le autorizzazioni, caro ex sindaco, però qui c'è una signora di 95 anni, ecco, ma che si fa? Cioè un sindaco si deve porre anche questi problemi, eh? Beh, io credo che i distinguo vadano fatti, e poi la sensibilità degli amministratori credo che sia un elemento fondamentale. Io dico sempre che al di là del rispetto delle regole, che deve essere la stella polare di un amministratore, il buonsenso deve guidare le azioni di tutti gli amministratori. Quindi sinceramente paragonare le demolizioni di manufatti abusivi che insistono laddove c'è un vincolo di inedificabilità assoluta, come ad esempio nel caso della Sicilia, della Sardegna, della Campania, di altre regioni d'Italia, al caso appena raccontato, che è un po' estremo. Però un po', per esempio, sindaco, l'aspetto grottesco è che il procuratore, per esempio, che ha mandato l'ordine di sfratto, dice, e sì, il problema che si pone è: credo che occorra evitare la realizzazione in zone che chiaramente hanno un alto rischio sismico di costruzioni di cui non risulti accertata la conformità delle norme. C'è una questione di sicurezza, mi sembra chiaro, giusto. Quindi è chiaro che anche questa diventa un'altra questione, con tutte le sue contraddizioni interne, perché da un lato legittimare l'abusivismo assolutamente assolutamente diventa problematico. D'altro canto, poi uno si trova una situazione come quella della signora Giuseppina, che a 95 anni in una casetta di legno viene sfrattata. Guardi, è chiaro ed evidente che qualcosa è mancata nel corso degli anni, è mancata la pianificazione in alcuni casi da parte dei comuni sullo sviluppo urbanistico. Se dovessimo andare a ricercare i fattori che hanno incentivato, se così si può dire, l'abusivismo, oltre a una questione culturale che secondo me è insita in tanti cittadini, oltre al malaffare, perché è un altro elemento naturalmente che ha incentivato l'abusivismo edilizio, la comprensione per determinate situazioni che si vengono a generare credo che debba appartenere, ripeto, alle istituzioni e a coloro i quali si trovano in questo caso anche i sindaci ad avere delle responsabilità oggettive. Però lei, Cambiano, le responsabilità le ha avute e io le faccio questa domanda diretta, perché giustamente Veronica Gentile ha detto è stato un po' l'eroe, tante volte si abusa di questa parola. Lei si sente uno sconfitto? Cioè lei è stato emarginato dalla politica da quando ha deciso di portare avanti le demolizioni delle case abusive? Mi scusi se la interrompo, io ho semplicemente fatto il mio dovere, lo ripeto da mesi. Ma è stato emarginato, cioè non è più sindaco, questo è il paradosso. Questo è il punto. Rispettare una sentenza della magistratura, fino a quando dico passa, che un sindaco decide o meno di demolire, non abbiamo concluso nulla, la mia vita sarà sempre a rischio, perché naturalmente dopo aver demolito 72 immobili nel giro di un anno, il messaggio che è passato è che il sindaco ha scelto di demolire. Ma scusate, per esempio, le sentenze della magistratura, sentenze messe nel nome del popolo italiano, si rispettano o no? Ma certo, assolutamente. Però la domanda assolutamente la ripeto. Allora dico, sì, una scelta politica, e allora la domanda va posta. Lei diventa quasi un'anomalia, però, nel momento in cui molti sindaci, per esempio, dicono che loro non possono agire motu proprio e che sono costretti ad aspettare altre procedure, che la magistratura dia l'ok, e poi in qualche modo c'è sempre un autogiustificazionismo. Lei è stato un'anomalia rispetto al panorama generale? Probabilmente sono stato un'anomalia e probabilmente in questa nazione fare il proprio dovere ti espone è un'anomalia. È un'anomalia. Ma infatti io non credo che possiamo quale insegnamento dobbiamo lasciare di quei giovani, perché la gente si allontana dalla politica. Ma certo, ma infatti Cambiano, i cittadini sono stati presi in giro dalla politica per 30 anni perché l'abusivismo si è sviluppato, ma va bene, sono responsabili coloro i quali hanno commesso l'abuso, ma la classe politica, le istituzioni, dove sono stati? Ma infatti Cambiano, per me lei è un vincitore, è chiaro che gliel'ho fatta come provocazione, ma lei però dal punto di vista politico, dopo che ha fatto Cambiano così, è arrabbiatissimo Alessandro, quindi certo, tu gli fai questa domanda. Dopo che ha fatto così è stato cacciato, e quindi le chiedo se lo sarà chiesto anche lei, ma ho fatto bene, ho fatto il mio dovere, però ho rimesso il posto da sindaco, se la sarà posta questa problematica. Ho detto semplicemente che avrei avuto la necessità di poter guardare mio figlio negli occhi senza alcun problema, senza alcun rimpianto, senza alcun rimorso, avendo fatto il mio dovere e avendo rispettato delle sentenze della magistratura, credo che posso guardare mio figlio negli occhi senza quello spirito di sconfitta che non mi può appartenere. Ma infatti, guardi, anche Veronica, i messaggi che arrivano, avercene sindaci come lui, cioè ha fatto le cose giuste, ha fatto, che poi appunto dice lui, ha fatto la normalità, cioè ha fatto eseguire sentenze della magistratura passata in giudicato. Però quanti sindaci dicono, ma non ci sono i soldi, ma dove metto i materiali di risulta? Scusi, non ci sono i soldi, guardi, la demolizione del manufatto abusivo è a carico, il costo è a carico di chi ha commesso l'abuso. C'è un problema di liquidità, ma c'è la cassa depositi e prestiti. Vedi però come è diverso l'approccio? Questa è una delle giustificazioni più utilizzate, quelle che mancano i soldi, quindi l'approccio è diverso. La domanda che non posso non farle è chiaramente una domanda così un po' scabrosa, ma secondo lei non c'è una collusività da parte della politica perché pensa di esserne ripagata in termini di consenso? E come no? Ma è chiaro ed evidente che quando la politica non riesce a governare questo fenomeno, la politica lo ha sempre rinviato questo fenomeno. Se si volesse veramente demolire e dare un segnale importante, probabilmente la politica attribuirebbe le competenze alla magistratura direttamente, che potrebbe avere la possibilità di demolire autonomamente i manufatti abusivi. Sì, si scaricano sui sindaci responsabilità di un sistema e delle anomalie di un sistema che probabilmente non vuole cambiare. No, ma non Io c'è non dubbio. Sono per distanze di 30 anni con il macete dappertutto. No, ma non c'è dubbio che voglio dire. Le seconde case in riva al mare, credo che abbiano l'egoismo di qualcuno, sia un abusivo per necessità, sì, cioè, o la storia che avete appena raccontato. No, ma infatti sono due cose diverse della signora. Dove tra l'altro mi risulta che la regione voglia in qualche modo, e vorrei tornare da Gabriella Turchetti. Signora Gabriella, devo dire, lei figlia, ricordiamo, di Giuseppa Fattori, 95 anni a Fiastra, di fatto con lo sfratto esecutivo per una casetta abusiva. Nel frattempo è arrivata anche l'ordinanza di demolizione della casetta. Ah, ecco, no, perché avevo letto che la regione voleva invece con quello che ha detto il sindaco, che io saluto e rispetto grandemente. Il senso di sconfitta in questo momento appartiene a noi. Però scusi signora Gabriella, sa che arrivano anche dei messaggi di critica a dire ci potevano essere mille altre soluzioni. È vero, lei dice mia madre era legata a quei luoghi, chiaro, voleva tornare lì. È brutto dirglielo, ma perché dovremmo avallare una situazione che non è regolare dal punto di vista edilizio? Allora, l'irregolarità forse non è stato ampiamente spiegato, non attiene all'aspetto urbanistico e strutturale, perché noi avevamo depositato nel parco dei Sibillini il fascicolo all'ex genio civile e pertanto quello che atteneva alla sicurezza era sicuramente. Voi avevate chiesto fatto. Tutto, infatti, leggevo tutti sì, i permessi li avevate tutti. Esattamente. Allora, esistono due aspetti. È un aspetto proprio quello legato al problema ambientale, paesaggistico. Sì. Mm-hmm. Allora, per costruire le SAE, cioè le casette di legno per i terremotati, si è proceduto ad una deroga della normativa ambientale sul parco. Però questa deroga è stata possibile perché si è detto che quelle sono strutture provvisorie. Sì. Quindi nel momento in cui la ricostruzione sarà terminata, quelle strutture verranno rimosse. Benissimo, sì. Però io vorrei chiedere a questo punto se anche lo sbancamento di parti di montagna sarà ripristinato anche quello. Non lo sappiamo, signora, non è che siamo esperti per capire la normativa giuridica. Di fatto mancava un'autorizzazione e quindi no, io Gabriella, abusiva. L'unico dubbio che le porrei è chiaramente il caso specifico di sua mamma è un caso chiaramente molto anomalo e che muove le coscienze. Il problema è che diventa un'eccezione, cioè che in qualche modo poi dovrebbe che può ripetersi, perché poi immagino perfetto. Che di situazioni molti ci chiedono sul territorio di queste situazioni ce ne sono tantissime. Ma non aggiungiamone una, signora, una. Ha ragione. Io non voglio con il nostro comportamento sdoganare l'abusivismo, per carità anche gradirei che non fossimo i primi, cioè estirpando un brufolo si combattesse su questo ha ragione, è chiaro che infatti l'abbiamo chiamata perché sembrava una vicenda paradossale andare a punire una signora di 95 anni che però parte da una situazione di abusivismo, questo l'abbiamo accertato. Io credo che questo caso ci sia utile per capire che poi esistono anche delle sfumature in tutte quelle questioni che sembrano invece monolitiche dal punto di vista dell'approccio. È chiaro che l'abusivismo va combattuto, però talvolta l'applicazione completamente acritica della legge può quasi avere l'effetto contrario. Comunque noi vogliamo ringraziare davvero Angelo Cambiano, Cambiano si candida ancora, cioè con la politica lei ha chiuso, fa il professore di matematica o si candida alla regione? Una bella domanda, se mia moglie mi ascolta non posso rispondere sinceramente. Perché le ha intimato di non farlo mai più. Scherzi a parte, la politica credo che debba essere un servizio e chi fa politica lo fa per passione, quindi la passione non scema da un giorno all'altro, la delusione è tanta però. Chissà. Continuo a seguire la politica e continuo ad impegnarmi in un'altra maniera per far crescere il mio territorio che lo prendiamo come un mezzo sì, non so se no, sua moglie si arrabbierà, ma Alessandro, poi magari una volta richiamiamo il sindaco a commentare queste regionali siciliane che sono molto a ridosso, esatto. E ci facciamo un po' di risate, che noi lo chiamiamo sindaco ma è ex, ma per no, noi è sempre noi sindaco di Ricata, sindaco forever in provincia d'Agrigento. Ringraziamo anche la signora Gabriella Turchetti, che richiameremo per seguire come sempre facciamo queste storie che sono in divenire. C'è Matteo che ci chiama da Modena all'800 24 00 24. Matteo, buongiorno. Sì, ciao. Eccoci, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ascolti, io sono un architetto, allora sentivo questa storia di questa casetta, ma volevo fare una domanda. Praticamente, se non c'è un vincolo di inedificabilità, vuol dire che la struttura è sanabile. Infatti a me risulta che la regione voglia, anche per la situazione della 95enne, affrontare questo tema di un'eventuale sanatoria, però la signora ci ha detto invece che è arrivato l'ordine esecutivo di abbattimento, per cui è in divenire. Se tu prepari una pratica in sanatoria, nel frattempo che la sanatoria viene visionata, loro possono bloccare il discorso della demolizione. Siamo un paese, cara Veronica, in cui c'è sempre una però è nel parco dei Sibillini e quindi ci sono dei vincoli ambientalistici, qui non dovrebbe essere, non può rispondere Alessandro, no, la sanatoria non la può fare lui. No, esatto, non so, ecco, mi ha posto tanti dubbi questa vicenda, che devo fare? Sì, perché è per questo che dicevo che poi talvolta uno pensa di avere la verità del tutto in mano, invece poi la verità non ce l'ha, perché ci sono sempre dei casi che sono un po' sui generis. Tu, Veronica, ti picchi di dire io so o ho certezze. Io mi sveglio e ho dei dubbi con tutti i giorni. L'agnostico, i dubbi. Sono agnostico al 90%. Adesso ricominciamo con questa storia. Vabbè, queste sono robe nostre, robe private. Dai, dobbiamo andare in pubblicità. Poi avremo un medico donna che ci racconta che cosa significa, ricordate la tragedia dello stupro a Catania qualche giorno fa, cosa significa in alcuni presidi ospedalieri essere da sole donne di notte ed essere a rischio, insomma, di violenze, a rischio di minacce, a rischio dell'aggressione di chiunque, e poi tanti altri temi, cara Veronica. Eh sì, che entusiasmo. A tra poco. I funamboli. Allora, cara Veronica, dobbiamo fare un saluto. Oggi, cari funamboli, compio gli anni 28. Più in equilibrio così tra la follia della giovinezza e l'incertezza dell'adultità. Vabbè, lasciamo stare la sintassi. Dite che riuscirò a non cadere. Luca Bacerto! Auguri! Ma sì! Certo, sì. Che però adultità, chiamiamo il presidente dell'Accademia della Crusca al volo, mi sa, adultità. Happy birthday, Luca! Vabbè, dai. Tanti auguri, Luca. Dai, che ce la farai a salutare. Erano meglio i miei, e su. Vabbè, sì, effettivamente a Luca io posso dire tanti auguri. Basta, punto. Tanti auguri, basta. 800 24 00 24. Allora, dopo aver parlato di abusivismo edilizio, tra l'altro c'è qua un funambolo che si aggira molesto, è Leonardo Manera che mi sventola pezzi di giornale. Dopo è lo un dici, abusivo, dopo, è un funambolo abusivo. Niente, mi sventola che sul Corriere c'è scritto che a 55 anni c'è il segreto della longevità, cioè da quel momento bisogna curare proprio il corpo in maniera molto attenta. Quindi adesso abbiamo una rubrica di consigli estetici. Non lo so, no, mi sta dando del 55enne forse, non lo so, non capisco. Freme. Sì, dalla regia qui vedo segni che mi dicono di sì, che ti porti malissimo gli anni, mi dicono. È molestissimo Manera oggi, te lo dico, è molestissimo. Allora, però noi dobbiamo, cara Veronica, raccontare una storia, che è una storia che prende spunto purtroppo da questa vicenda tragica di Catania, no? Di questa donna che è stata violentata da un medico che ha aperto al paziente come si in fa in un di ambulatorio notte. Durante il pronto soccorso. Esatto. Quindi una donna che stava lavorando nel pieno delle sue funzioni e che è stata aggredita mentre appunto svolgeva il suo lavoro. E purtroppo ha aperto un mondo su una realtà che forse non è così conosciuta, ma che non è neanche così rara. Per questo vogliamo salutare Ombretta Silecchia. Buongiorno, medico, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, Ombretta. Buongiorno Veronica, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, a marzo è successo all'ambulatorio di Statte, dove faceva quella che viene chiamata la guardia medica in maniera... Sì, perfetto, quindi, che oggi prende il nome di continuità assistenziale. Esatto. Sì. In provincia di Taranto, Statte. In provincia di Taranto, che è successo? Lei era da sola in servizio, immagino. Sì. L'episodio risale precisamente al 27 febbraio. Insomma, in quella sera io ho subito delle minacce da parte di un uomo armato, un pregiudicato agli arresti domiciliari, che era un assiduo frequentatore dell'ambulatorio presso cui all'epoca prestavo servizio. Sì. L'uomo richiedeva continuamente la prescrizione di analgesici, quindi farmaci antidolorifici da cui era dipendente. E già nel turno precedente mi aveva dato il tormento, non solo telefonando più volte in ambulatorio, ma presentandosi in sede a notte fonda, invendo contro di me e contro le altre colleghe che a turno lavoravano lì. Il problema è che quando arriva un paziente, voi non potete neanche rifiutarvi. Siete costretti ad aprire. Esatto, siete costretti ad aprire. Certo, è ovvio, è il nostro lavoro. È il nostro lavoro quello, non possiamo non aprire, ci mancherebbe altro. Non c'è sicurezza, cioè non c'è nessuno Assolutamente no. Se per sicurezza intendiamo un videocitofono o un sistema di videosorveglianza, questi potrebbero anche esserci, ma capite bene che le telecamere servono a posteriori per identificare l'aggressore. Sì, uno, diciamo, può dare un metodo preventivo. No, è chiaro, uno può dare un occhio, però non è che dà un'occhiata può giudicare. No, ma poi se uno sta male è il dovere della guardia medica di aprire. È il nostro lavoro, è la nostra professione. Poi non basta una fotografia per identificare qualcuno che abbia delle cattive intenzioni. Anche perché in genere uno che si presenta magari è sofferente, quindi già la... Certo. Però... lo stesso vale quando andiamo di notte a fare le visite domiciliari, perché dal momento in cui noi ci chiudiamo quella porta alle spalle comunque non siamo hai idea soli di che succede, e non possiamo sapere quello che il problema, dottoressa Silecchia, che è un lavoro un pochino solitario, soprattutto quando appunto si va a casa delle persone, cioè che cosa si può fare, perché come dire, che cosa si può fare? Innanzitutto noi non dobbiamo essere lasciati da soli. È impensabile che si possano correre oggi dei rischi di questo genere e che soprattutto si possano verificare episodi gravissimi come quello accaduto pochi giorni fa alla collega nel catanese, che sono episodi non solo possibili ma prevedibili, ma sono episodi annunciati, perché noi abbiamo un bollettino di guerra lungo 30 anni. Il primo episodio risale al 1984, se non mi ricordo male. Un'altra violenza sessuale, un tentato omicidio in provincia di Cagliari. In questa lista poi spiccano purtroppo due omicidi. Noi abbiamo perso due colleghe nel 1999 a Gagliano del Capo, la dottoressa Maria Monteduro. Sì. E nel 2003... in provincia di Oristano, la dottoressa Roberta Zetta. Non so, è possibile per esempio stare almeno in due, cioè, perché ci sono, immagino, dei presidi scoperti, dei presidi con personale. Oppure avere un servizio di sicurezza anche, non so. Assolutamente, non so. È quello che la maggior parte di noi medici chiede. Tenga conto che dopo l'omicidio della dottoressa Zetta, la Regione Sardegna è stata l'unica che ha istituito un sistema, cioè un servizio di vigilanza armata almeno durante le ore notturne. È l'unica regione che lo ha fatto. Ma vedevo che in Puglia, per esempio, c'è una casistica molto alta. Cioè che noi ci sono... siamo maglia nera, abbiamo il 26%. Perché? Dei casi perché, nazionali. Dottoressa Silecchia, ci sono tanti casi di donne medico che devono lavorare da sole? Qual è perché il ci motivo? Sono più ambulatori. Ci sono più ambulatori, qual è la situazione? Allora, l'essere soli in turno dipende dal numero di abitanti del comune servito da quella sede. Sì. Quindi insomma è scritto nell'accordo collettivo nazionale. Io a Statte ero da sola perché la popolazione era di circa 14.000 abitanti. Sì. Se il comune ovviamente ha una popolazione più numerosa, in turno si è in due, di più. Addirittura in tre o in quattro. Quindi tutte quelle zone che chiaramente hanno dei paesi più piccoli e un ambulatorio in cui si tende a star soli sono chiaramente molto più a rischio. Assolutamente, poi molti ambulatori sono assolutamente dislocati in posti periferici del centro abitato, quindi posti dove la notte non gira nessuno. E questo è un altro problema. Cara dottoressa Ombretta Silecchia, noi raccogliamo, intanto la ringraziamo per questa storia. Da quel giorno, come dire, il suo lavoro com'è stato dopo essere stato minacciato con una pistola? Immagino che... Problema così sentito dalla mia categoria. Ringrazio voi. Grazie, allora, grazie a lei. Speriamo che si risolva. Speriamo che si risolva, però effettivamente io volevo dire una cosa sempre sulla violenza nei confronti delle donne, che per una volta mi fa estremamente piacere la dichiarazione che ha fatto il presidente del Senato Pietro Grasso, in cui che ha detto: a nome di tutti gli uomini ti chiedo scusa alla ragazza di 15 anni che è morta per un colpo di pistola sul viso dall'ex fidanzato della mamma. Ha detto una cosa assolutamente giusta, cioè avevi tutta una vita davanti, ma un uomo ha scelto di spezzarla. Non sei la sola ad aver avuto questo terribile destino, scusateci tutte, è colpa nostra, è colpa degli uomini, non abbiamo ancora imparato che siamo noi a dovervi sempre rispettare, a dover sradicare quel diffuso sentire che vi costringe a stare attente a come vestite o a non poter tornare a casa da sole di sera. Allora, siccome abbiamo avuto le dichiarazioni del senatore D'Anna, per esempio, che ci hanno colpito tutti molto, e sappiamo che c'è un retropensiero di questo tipo sull'essersela cercata, il fatto che il presidente del Senato, un'istituzione così importante, prenda una posizione così netta, mi rinfranca. È giusto, è sicuramente, ha detto le parole da sottoscrivere Piero Grasso. C'è Marco che ci chiama da Roma, sul tema, immagino, di prima, l'abusivismo edilizio. Sì, Marco, eccoci. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io ho un caso, penso, unico in Italia. Allora, brevemente, mio padre nel 1973 ha comprato al tribunale all'asta un immobile, quindi si suppone che se lo vende il tribunale ci siano delle fondamenta di tranquillità, di sicurezza. E questo immobile comprato al centro di Roma era un magazzino, esisteva da oltre 50 anni, quindi stiamo parlando di immobili costruiti nel 39. Mm-hmm. E questo immobile è costruito su area del comune di Roma, infatti il comune di Roma ci chiede l'affitto che noi da 40 anni puntualmente paghiamo. E invece non è regolare. Dopodiché abbiamo fatto il condono edilizio per fare il cambio di destinazione d'uso nell'85 e a parte il fatto che ci hanno risposto dopo 20 anni, ci hanno bocciato il cambio di destinazione d'uso, quindi in teoria ritorno al magazzino e dovrebbe essere risolto il problema, ma in realtà ci hanno fatto un ordine di demolizione, quindi noi siamo con un magazzino a Roma, comprata all'asta. Lei dice giustamente, l'ho comprato da un tribunale, quindi da un tribunale. Sai, la cosa più bella è che il comune di Roma ci chiede l'IMU. Sì. Pure se devo pagare, però abbattetelo così. No, il comune di Roma ci chiede l'affitto del suolo. Fa pure lo spiritoso. No, ma certo, si ride per non piangere, Marco. E quindi siamo, a parte neanche così, non è così facile neanche la demolizione. No, è chiaro. Quindi noi abbiamo un IMU da pagare, un affitto da pagare, un immobile comprato all'asta del tribunale e forse da abbattere. Nel frattempo non possiamo. Marco, effettivamente sembra un caso, io non lo so se ci sono altri casi così sfigati, diciamo, nel senso perché... sembra più un problema legato alla faccenda, alla superstizione di ieri. Ecco, appunto, tra l'altro vorrei dire, abbiamo avuto ieri il sindaco di Colobraro, siamo tutti qua vivi, però... sani, non è successo niente a nessuno. Io risuggerisco il cambio di stazione immediato ogni volta che lui... ma la fai smettila, finita, ma tu smettila di dire di cambiare radio, che tra un po'... tra un po' c'è Manera, cambiate radio. Sì, cambiatela subito, prima che parli Milan e poi Manera. Dopo cambiate stazione. Manera tra poco. I funamboli. Cara Veronica, alle 9:48 minuti c'è un Leonardo Manera che è carico a pallettoni. Pallettoni misti? Ma è una roba, è arrivato di una molestia. Si avvicina a tutte le colleghe. Ma no, attacca bottone. Ma molesto, molesto. Sono anni che io non ci provo più con nessuna donna, sappilo, cara. Come Veronica? Mai? Ma perché sono le donne che vengono da me naturalmente? Perché vieni assalito dalle donne. Le donne e Michele da Firenze. Se quello stavo per dire, chiaramente. Michele. Noi abbiamo visto solo Michele per ora a salirti, metaforicamente. niente, tra l'altro, perché di persona ancora non si è presentato nemmeno lui. Quindi se te li fai mandare da un amico tuo prezzolato, noi non lo sappiamo. Mi ha fatto ridere l'ascoltatore, insomma, un riso amaro. 20 anni per avere una risposta dal comune. E gli chiede lì su una cosa abusiva. Una risposta più che maggiorenne, diciamo, ho dovuto aspettare tantissimo. Va bene. Vabbè. Allora, siamo quasi in autunno, cara Veronica, cosa ne dici? Siamo in autunno, ormai siamo in autunno, purtroppo, 21 settembre, l'estate ce la siamo lasciata alle spalle. È finita l'estate, cominciano le prime gite autunnali, no? Non so cosa farete voi questo fine settimana, però questa settimana si è parlato delle castagne, i funghi, i porcini, i finferli e così via. Si è parlato molto invece questa settimana dell'avvertenza Ryanair, no? Dei voli cancellati, delle persone che non riescono a partire, a volte senza preavviso, stanno lì per ore in attesa in aeroporto a girare tra le cravatte e i liquori del duty free. Io ho visto immagini di passeggeri in attesa da giorni a Orio, al Serio, completamente ubriachi e con al collo 10-12 cravatte del duty free. Io quando ho viaggiato con Ryanair, ecco, mi ha sempre colpito quell'atmosfera di quei voli, con gli assistenti che fanno battute mentre vendono i biglietti della lotteria, un mondo facile che non vorrebbe avere nessuna ansia, anche l'ansia di volare, che è la mia paura principale. Io per esempio ho paura delle turbulenze, appena l'aereo comincia a ballare io invece mi blocco e comincio a sudare. Però ho saputo che se sono previste turbulenze le hostess non danno bevande calde per non rischiare di scottare il passeggero in caso di caduta della bevanda, perciò appena salgo chiedo subito se c'è il caffè, se non c'è mi preoccupo perché presumo le turbulenze, se c'è lo bevo e mi agito ancora di più. E poi vedo la hostess che magari è carina, penso che me la vorrei fare, ma poi magari mi viene l'ansia da prestazione, perciò appena salgo in aereo vado subito dalla hostess e le dico non me la dare che mi viene l'ansia. Invece con Ryanair non è così, atmosfera rilassata, prodotti in vendita, assistenti che fanno battute, poi tutti in partenza per le vacanze serene, rilassate, a volte di gruppo. Per me Ryanair era il simbolo dell'occidente spensierato, alla ricerca di spiagge e avventure sentimentali con le ragazze in perizoma sulla spiaggia. Poi le mie coetanee, le cinquantenni, che per dimostrare di essere ancora giovani hanno tatuaggi dappertutto, un leone sulla schiena, una tigre sulla pancia, un fenicottero sulla coscia. Quando fai l'amore con loro non è proprio far l'amore, è più una gita al parco safari. E poi le donne più anziane, quelle che si mettono in riva al mare con la pelle un po' increspata, guardano le ragazze giovani passare e dicono ai miei tempi si arrivava vergine al matrimonio, quanto tempo sprecato. E in tutto questo, anche nei luoghi più lontani, ci pensava Ryanair ad accompagnarti, spesso anche a prezzi contenuti, con le leggende di tariffe mitologiche, 1,50 euro da Orio al Serio a Singapore. E coi passeggeri tutti a controllare che il bagaglio a mano fosse delle dimensioni giuste per farlo entrare nella cappelliera. Un piccolo bagaglio a mano dove però dovevi concentrare l'essenziale per la tua vita. Un paio di ciabatte, un costume e delle cuffiette per ascoltare Despacito. E poi di sera nel villaggio sul Mar Rosso tutti a fare i balli di gruppo. Lontani dai conflitti, dalle paure, da qualsiasi cosa potesse turbare quel clima spensierato. La crisi di Ryanair, secondo me, e per me, è un po' anche la fine di tutto questo. Certo, Ryanair c'è ancora e continuerà a portare tutti noi ovunque, ma la crisi di Ryanair mi fa pensare che anche loro siano atterrati nel mondo reale, che anche per loro siano finite le vacanze. Peccato, perché volevo trasferirmi a Orio al Serio, pensando che fosse veramente il paese dei balocchi. Ormai, purtroppo, mi resta solo Ciampino. È il nostro Leonardo Manera. Cos'è questo? Non è Despacito. Come forza in pista. Manera, devo dire una cosa, odia Despacito, proprio la odia con tutto il cuore. Dal primo giorno che ce lo dice. Fortunatamente siamo arrivati alla fine dell'estate, quindi Despacito non si sentirà più per un questo po'. Questo è uno dei problemi che hai risolto con l'autunno, Leo. Sì, sì. Come hanno detto quei miti di The Jackal, Despacito andrebbe trattato così. E la cosa peggiore sono tutte le derivazioni, le parodie di Despacito, tipo Infradito e così via, cosa sì, inascoltabile. Tutte te le sei sentite, eh? Cioè, vabbè. Quel masochismo despacitesco. Anch'io, l'estate scorsa ero in vacanza con mio figlio in un villaggio in Puglia dove la mattina si veniva svegliati con Despacito e il saluto finale era la parodia di Despacito, cioè Infradito. Quindi questa è stata la mia estate amarissima. Amarissima, amarissima. Amara, veramente. Guardate, c'è Alessandro Milan che balla. Come The Jackal. Altissimi, no? quando arriva il ritornello è così. E adesso, dopo tutti gli improperi, scatta il ritornello e via. E parte il bacino. C'è anche Salvatore Salvatore da Como che sta cantando, sentilo un po'. Salvatore, buongiorno. No, scherziamo ovviamente. Salvatore, buongiorno. Sì, buongiorno, io saprei anche cantare bene, ma non lo faccio. Ecco, e forse possiamo cambiare l'intervento, Salvatore, che ci puoi cantare invece di... No, io voglio dare un suggerimento Salvatore, serio. Ti dico solo una cosa, Salvatore, maledetto Salvatore, non puoi, non puoi vantarti di una cosa e poi non farla. Non puoi dire io canto bene ma non lo faccio, è brutto da parte tua, devi cambiare atteggiamento verso la vita, Salvatore. Il nostro Leonardo. Cosa volete farmi fare? No, niente, niente, per carità, Salvatore, ci dica il suo intervento, dai, che stiamo per chiudere. No, perché poi io ce l'ho lunga, quindi se a cantare ci prendiamo una mezza giornata di sabato o domenica. No, è divertente la parodia sulla Ryanair, è bellissimo completamente. Lo so, purtroppo Leonardo Manera ci lascerà domani. Sì, però... A proposito della sicurezza e della insicurezza delle guardie mediche, sì, che visto che la crisi occupazionale in Italia si può creare un posto di lavoro. Quindi mettere una figura professionale all'interno delle guardie mediche che si ritengono a rischio, a rischio, un infermiere, una figura che possa coadiuvare il lavoro sanitario medico del dottore. Ma Salvatore, è tutta una questione poi di costi, le strutture hanno dei costi. Quando bisogna spendere qualcosa di utile, non ci sono i soldi perché le hanno rubati tutti. Quando poi invece vogliono fare qualcosa che è inutile, i soldi li trovano sempre. Ma io infatti, io sono d'accordo con lei, nel mondo ideale ci dovrebbero essere sicurezza, anche una guardia, io metterei anche una guardia giurata, però evidentemente la guardia giurata sì, anche quello, però diciamo un po', ma è un deterrente abbastanza forte, però nelle nelle guardie mediche d'Italia che si pensa possono essere a rischio perché magari uno è in un contesto non più persone, più persone, una persona va bene, va bene. Ma Salvatore, chiarissimo, è che se no sforiamo nella prima ora, dai, scherzo, Manera rimarrà anche domani con noi, tanto è sabato, adesso lo facciamo ballare Despacito e andiamo al giornale radio. Che fai? Prima lo minacci di cacciarlo fuori e poi lo tieni? No, che sono già terrorizzati tutti. Dai, su Despacito andiamo al giornale radio e poi seconda ora dei Funamboli. Despacito. Despacito. Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano, ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente, fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi. I Funamboli. Il marito si è rivolto a tutti. Inseritele in bocca. Scandite. Non si è rivolto a me. Posso curare vostro marito, ma mi occorre fiducia totale. Il vostro primo ricordo. Non sono qui per parlare di faccende personali. Perché siete qui allora? Perché malvetto la nazione! Che film straordinario, eh? Mamma mia. Il discorso del re. Mamma mia. Meraviglioso Colin Firth. Sì, Giorgio IV che racconta. Hai sentito come ha pronunciato bene Colin? Come si dice Colin? Colin Firth. Ma l'ho fatto unicamente perché speravo che lui lo ripetesse. Solo per questo che l'ho abbiamo fatto. Capito. No, lui... Come si chiama il protagonista, Ale? È che lui perde un canino, se lo dice. Colin Firth. Firth. Firth. Your pronunciation Firth. Firth. Is perfect. Firth. Oh, eccolo, eccolo. No, straordinario film, Il discorso del re, che narra la storia di Giorgio IV, insomma, il suo problema, la balbuzie per un re dovere parlare al mondo, alla nazione. E anche con una certa autorevolezza, che è l'altro problema, no? Esatto. Perché alle 10:09, questa è la seconda ora dei Funamboli, 800 24 00 24, mandateci anche i WhatsApp audio se volete al 349 238 6666, ed è il momento... Il funambolo del giorno. Giovanni Muscarà, 35 anni, ha lasciato il lavoro in una banca d'affari londinese per aiutare i balbuzienti a migliorarsi e vivere meglio. Che già che così storia. Che storia. Giovanni, buongiorno e grazie di essere buongiorno qui a Radio 24. Buongiorno a voi, ciao. Allora, intanto, e questo è vero, cioè hai lasciato un lavoro sicuro, diciamo, un lavoro anche immagino soddisfacente, per buttarti in questa nuova avventura. Assolutamente sì, non perché pensassi un giorno farò una scuola per balbuzienti, non me lo sarei mai sognato. Il punto è che io fin dall'età di 2 anni circa, per dire soltanto il mio nome, ci mettevo tipo 40 secondi, cioè... E non è che semplicemente balbettavo nel senso di papà, papà, mamma, ma andavo a perdere completamente il controllo di ogni centimetro della mia faccia. Scusami, quindi però a sentirti adesso parli molto bene. Ma mi è costato una fatica immane. Cioè io mi sono sempre detto, io voglio riuscire a parlare bene, non sono riuscito a trovare nel mondo un modo che mi permettesse non di non sbagliare mai, ma di poter essere libero di parlare come sono, perché fin da bambino stai calmo, stai tranquillo, respira. Io sono un esaurito cronico, mi ansio sempre stato, e dico, ma come faccio a stare calmo? Non Giovanni, c'è qua Leonardo Manera che ti capisce tutta perfettamente. Tutta la mia solidarietà, no, ma... guarda, anche io lo capisco perfettamente. Giovanni, ma quindi non trovando un metodo, te lo sei creato tu questo metodo, mi sembra di capire. Sì. Anche noi, Leonardo, possiamo lavorarci. No, ma è bellissimo, perché tra l'altro Giovanni Muscolà, se ho capito bene, noi abbiamo fatto sentire un brano del discorso del re, perché è il film che ci proietta più in questa storia, però anche il metodo insegnato lì dal logopedista al re non è il metodo che secondo te è più efficace. Cioè tu hai delle resistenze sui logopedisti, su anche tutta la parte invece psicologica, ho letto, quindi tutte quelle che sono le spiegazioni. Non ho un problema con loro, il punto è che non si centra il punto, c'è un problema culturale. Si dice che la balbuzia, perché quando eri piccolo il cane ti ha morso, il trauma, a me hanno detto che mia madre che un giorno mi ha voltato le spalle, e da quel giorno io, cioè, ci dicono delle cose terrificanti. E invece poi, secondo te qual è la spiegazione di questa fatica? Più che altro la spiegazione non serve, nel senso, non temo che non risolva il problema. Cioè per noi è un problema di controllo motorio, ovvero evidentemente fin dall'età di 6 anni i miei genitori mi hanno portato dovunque, ma mi insegnavano sempre la stessa cosa, ovvero a parlare sul principio del canto, un po' come fa il re. Come fa il re? È chiaro che tu riesci, ma poi vai fuori, ti presenti ad una ragazzina, piacere Giovanni, evidentemente scappa. Cioè, infatti, infatti io conosco diverse persone che fanno spettacolo, che quando durante lo spettacolo non balbettano, e invece poi nella vita quotidiana riprendono. È per questo motivo, perché tu quando fai... certo. Però Giovanni, cioè, quando vai ad entrare in un ruolo, quando non sei più te stesso, riesci meglio. Però Giovanni Muscarà, interessante, perché devi spiegarci tutto di questa scuola. Cioè, che cos'è? Hai fatto una startup? È vero che arrivano da tutta Italia, perché forse molta gente che ci ascolta sarà anche interessata, o di persona o ha qualche parente interessato. Dici a raccontarlo. Quindi sostanzialmente l'idea nasce in Inghilterra nel 2011, ma dopo poco mi sono detto, già io non sono medico, non sono nessuno, cominciare qui forse è un po' complicato, e quindi sono tornato a Milano, dove sono stato incubato presso Fondazione Filarete, che è un acceleratore di imprese di Fondazione Cariplo, Intesa San Paolo, dove mi hanno dato la possibilità di crescere pian piano con un cappello, diciamo. E quindi poi alla fin fine il tema era sempre, ma la gente è contenta quando fa il corso con noi oppure no? Visto che ma pian attorno piano, a cosa verte il tuo metodo? Cioè tu che cosa fai fare alle persone che hanno problemi di balbuzie? Quindi, non lavoriamo sulla voce, non lavoriamo sullo star calmi, ma impariamo a controllare ogni centimetro del mio corpo. Se io sarò della faccia, immagino, soprattutto le mie labbra, la mia lingua, la mia mandibola, potrò controllare tutti i suoni prodotti da questi movimenti, ovvero parlare è un atto motorio. E quindi perché continuare a dire che devo stare calmo? Però non obbliga questa essere... cosa dello stare calmo. Questo metodo è stato proprio, non gliela perdonerai mai. No, assolutamente. Ma questo tuo metodo non ti obbliga ad avere una concentrazione altissima? Se devi tenere concentrate tutte le parti del corpo, diventa in qualche modo problematico, o no? Evidentemente. I primi giorni dei nostri corsi, che durano una settimana circa, sono, scusate il termine, un bagno di sangue, sono faticosissimi. Certo. Il tema è però, pian piano, nel momento in cui tu vedi che riesci, in quelle situazioni in cui non riuscivi prima, pian piano il tuo cervello dice... dico questo modo, lo ma faccio anche perché mio. Giovanni, come dire, la tua migliore pubblicità sei tu che parli, non so come dire. Però Giovanni, in una settimana cioè, voi fate il corso, poi però uno deve lavorarci a casa, perché in una settimana sennò è come andare a Lourdes. Sì, allora... sì, ovvero in una settimana settimana tutti riescono a riprendere il controllo della propria motricità e della parola di conseguenza. Chi al 90, chi 70, chi 60, ma è impossibile modificare in maniera permanente schemi motori e comportamentali. Ci vuole dopo un lavoro insieme, perché noi non li lasciamo mezzo secondo, di almeno 6 mesi. Ovvero tu senti come si fa e senti che riesci. Però se c'è un metodo che vale, cosa no, di fronte alle difficoltà della, magari di una vita, di tutto anche il periodo dell'adolescenza, cosa vuoi che siano 6 mesi di applicazione se il metodo funziona? Ma come, come ti si contatta? Beh, ci sono persone, per esempio, ci scrivono adesso, sono balbuziente, secondo me esistono vari metodi, magari diamo anche uno spunto a chi vuole contattare per saperne di più. Sì, il nome del centro si chiama Viva Voce, Istituto, il nome non si dimentica, è la sede principale. Storica trasmissione anche qui di Radio 24 che ho condotto anch'io, tra l'altro. Viva Voce, era creata da Giancarlo Sant'Almassimo, che saluto ovviamente. La sede principale del centro è su Milano, zona Nuova D'Arsena, diciamo, e poi facciamo questi corsi anche su Caserta, su Milano. Su Roma, su Bologna, su Catania. Viva Voce, c'è un sito internet? Sì, vivavoceinstitute.com. vivavoceinstitute.com. Giovanni, rimpiangi qualcosa della tua vita a Londra precedente, diciamo così, oppure no? Assolutamente no, nel senso, come dire, io nonostante ci siano, come potete immaginare, delle difficoltà estreme, la grande fatica di incominciare da solo, e per noi è una battaglia culturale proprio. Io sono contentissimo perché faccio quello che mi piace fare, cioè io godo a fare il mio lavoro. È una faticaccia, però quando vedi il sorriso che compare sulla faccia di un bimbo perché semplicemente fa una telefonata, è un qualcosa che, allora, per me è imparagonabile, impagabile. Beh, ma poi nessuno potrà empatizzare come te con tutte le persone che hanno questo problema, cioè chi parte motivato dal disturbo su di sé parte con una marcia in più. Infatti ci vuole una grande motivazione. Quando viene qualcuno che io già vedo subito che magari non è molto motivato, io dico: guarda, se non sei convinto, non venire. Se non sei convinto, vieni tra un anno, tra 2 anni. Cioè, non è una cosa facile, è un qualcosa che si deve volere fermamente, perché è come se tu proprio modifichi i tuoi input motorico, cioè ti cominci a muovere in un altro modo, ed evidentemente è molto dura, però con il lavoro, con il tempo, barra insieme, perché siamo sempre insieme, si possono fare delle cose. Hai pensato di in qualche modo brevettare il tuo metodo? Non so se si possa fare. Sì, ma non si può fare in realtà, ma stiamo validando scientificamente questo metodo. Abbiamo creato anche un centro studi con alcuni ricercatori, di modo che, perché vi dico, evidentemente in questi anni hanno cercato di massacrarmi, mi hanno mandato i NAS, i carabinieri, tutto. Evidentemente noi abbiamo sempre fatto tutto bene, quindi come dire, abbiamo cercato di validare scientificamente questo metodo, per non incappare, come dire, in qualche personaggio che è ancora un po' legato ai vecchi schemi, alle vecchie idee, diciamo, perché sia qualcosa che la scienza dice funziona per questo e per quest'altro. Abbiamo anche appena partecipato ad un convegno mondiale di neuroscienze ad Amsterdam con dei grandissimi riscontri. Bene. Vabbè, quindi comunque una cosa scientifica, perché tu hai, leggo, anche fisioterapisti e neurologi con te, quindi insomma non è una cosa No. all'arrembaggio, ecco. No, è un mix tra professionisti in ambito sanitario e come dire, rieducatori formati con il nostro metodo, cioè che sostanzialmente la parte un po' più tecnica la vanno, come dire, a fare i professionisti medici, sanitari. Poi sulla parte più comportamentale interveniamo noi. Mi spiego: se tu non riesci ad ordinare un caffè, come dire, i professionisti medici ti insegnano l'aspetto un po' più tecnico, e poi insieme ti accompagniamo e proviamo a vedere se questa cosa funziona. Mi sembra, non togliendo l'ansia, ma mettendo una straordinaria storia davvero funambolica. Giovanni Muscara, funambolo verbale, funambolo verbale, insegna patente alle persone a sconfiggere la balbuzia. Bravo. Traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta i funamboli. Siamo qui. 10 e 20 minuti. Che storia raccontiamo adesso, caro Alessandro? Ah, caro Leonardo, adesso abbiamo intanto un amico, se risponde, che credo ci sia e che ritroviamo con piacere, che è Vincino. Lo vedi, gli amici non ti rispondono più al telefono. Vincino non risponde. È sintomatico questo. Dov'è Vincino? Sta dormendo. Fatti due domande. Vincino, oh, come stai? C'è Veronica Gentili, c'è Leonardo Manera. Lo conosci il comico Leonardo Manera? Leonardo Manera. Buongiorno Vincino, la ringrazio anche per la risposta molto secca e sincera, sincera. Grande Vincenzo, come stai? Bene. Allora, ti dobbiamo raccontare questa storia. La facciamo con un avvocato. Non vediamo l'ora di sentire come la pensa. Sì, sì, un avvocato. Tanto il cellulare prende male di Vincino, il problema è richiamarlo. L'avvocato. L'avvocato sente benissimo. Stefano Giordano, buongiorno avvocato. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Grazie. Palermitano. Salve. Palermitano. Ma era a Trento per un'udienza a difendere. Adesso non ci interessa l'udienza, non è importante che tipo, no, di processo. No, era, no, a Trento, no, di, no, fronte, no, al giudice presidente del Tribunale del Riesame. Tribunale del Riesame, sì, ecco, che è il tribunale, sì, che poi, diciamo, sostanzialmente decide della libertà delle persone. Allora, lei dice e ha fatto verbalizzare una frase che mi ci permette di usare il condizionale, cioè che avrebbe usato il giudice. Che frase è? Ce la vuole, sì, ma il giudice, questo giudice l'ha anche ammessa questa parte. Allora, leviamo il condizionale. Può togliere anche il condizionale da questo punto di vista. E cosa ha detto questo giudice? Cosa ha detto? Questo giudice, quando io mi accingevo a effettuare la mia arringa difensiva, perché si trattava di una posizione particolarmente delicata che veniva dalla Cassazione, che aveva annullato un'ordinanza, insomma, in materia di libertà personale, comunque, sì, ha detto che siccome già era tutto deciso, perché la Cassazione aveva deciso, dovevo stare zitto, dovevo tacere. Quando io ho chiesto più insistentemente, ma educatamente, di poter svolgere la mia attività difensiva, mi ha detto: taccia, perché questo è un posto civile, noi non siamo a Palermo. Ah, questo è un posto civile, non siamo a Palermo. E lei ha replicato, no, oppure ha registrato la frase e basta? Purtroppo non ho avuto la prontezza di registrare la frase, anche se erano presenti dei collaboratori miei in udienza, quindi insomma. Però io ho avuto la prontezza, questo sì, di intervenire, fare interrompere sostanzialmente l'udienza e chiedere al cancelliere di verbalizzare la frase. Ma lui si è reso conto, cioè ha fatto retromarcia, ha detto: oh mio Dio, cosa ho detto? Ma guardi, a me risulta questo, nell'udienza ha continuato, diciamo, anzi ad arringare, a difendere le sue posizioni, anzi le posso dire qualcosa in più, ha cercato di impedire che la frase venisse verbalizzata, quindi c'è stato un contenzioso, diciamo, notevole, perché la frase venisse verbalizzata. Poi dopo, successivamente, mi risulta da una serie di articoli di giornale che ha ammesso di averla detta e ha detto, perché l'avvocato è stato particolarmente scorretto in temperanza. Vabbè, questo magari ci potrebbe anche, magari lei è stato scorretto, quindi, non lo sappiamo, però, no, aspetta, però la frase, però questa è importante, mi riservo poi di querelare il giudice, chiaramente, che quindi il fatto che lei sia stato scorretto veniva dal fatto che è palermitano, ecco, questa era la palermitani scorretti, il silogismo era questo qui, genovesi, sì, tirchi, si sa, palermitani scorretti. E però il giudice era un trentino doc. Ecco, quello che volevo dire è che mi sono sentito veramente nel dovere morale, anche contro paradossalmente gli interessi potenziali del mio assistito, fare verbalizzare questa frase, perché mi è sembrato francamente un insulto, innanzitutto a tutti i palermitani, un insulto alla mia toga, un insulto perché nessuno può permettersi così di, diciamo, tra l'altro in maniera così volgare, di eliminare o estinguere il diritto di difesa del difensore. Ma poi soprattutto perché io sono, oltre ad essere, sono un cittadino italiano che mi sento vergognato da quella frase pronunciata da un'autorità giudiziaria nel corso dell'udienza, e sono cittadino palermitano, io sono fiero di essere cittadino palermitano, sì, perché questo signore che si è permesso di dire queste cose non certamente disprezza implicitamente la memoria di tante persone che sono morte in questa città per il rispetto della legalità, compresi i suoi colleghi. Quindi si deve vergognare per la frase che ha proferito. E questo sì, lei l'ha voluto chiarire in maniera molto, molto chiara. Vabbè, no, tra l'altro devo dire, il cellulare di Vincino non prende più, quindi no. Io faccio anche notare. Ha sentito Manera Vincino e se n'è andato. Faccio notare agli ascoltatori di Radio 24 che abbiamo avuto un evento straordinario qui alla radio, una ring gratuita di un avvocato. Questo è straordinario, non ma è anche detto. Straordinario come Vincino sia corso a guardare chi sia Manera dopo aver detto sì e quindi ha attaccato il telefono. Non è, esatto. È chiaro ed evidente, cioè, che è andata così. Almeno, no? Non è detto era che indignato, era indignato. Era indignato. No, Vincino è poi palermitano doc. Vincino, guarda, se conosco bene Vincino avrebbe detto... La possiamo, cioè, fare noi la parte di Vincino. Esatto, avrebbe me, detto una roba del tipo, ma manco fosse stato di Catania questo avvocato. Avrebbe detto una battuta del genere Vincino. No, no, ma a me la cosa che mi lascia veramente basita è il fatto che non abbia fatto retromarcia. No, ma avrebbe avuto anche l'occasione in questa intervista che ha rilasciato di scusarsi con i palermitani, di ecco, dire che è stato un momento così, che in realtà non pensa a quello che ha detto. Quello che gli chiediamo, diciamo, è semplicemente di chiedere, non soltanto, poi risponderà chiaramente perché è un giudice, chiaramente risponde delle cose che dice, insomma, sì, no? Sì. Ciascuno di noi. Ma infatti al CSM è stato aperto anche un fascicolo al CSM. Sì, però faccio una provocazione, devo fare una provocazione, caro avvocato Giordano. Devo che chieda scusa. Ma io devo fare una provocazione. Secondo me finisci male, però tu falla. Non è che magari il giudice si trova in un distretto giudiziario, Trento, nel caso in cui, non so, è tutto perfetto, i fascicoli non sono in ritardo, e per cui non voleva infastidirlo dal fatto che ci potesse magari porre un rallentamento, dice qui siamo, ecco, è usato questa parola brutta, siamo in una città civile, cioè dove tutto funziona dal punto di vista giudiziario, non a Palermo dove magari ci sono 8000 fascicoli. Dice che era una critica dal punto di vista giudiziario, più che dal punto di vista giudiziario. Sto facendo l'avvocato del diavolo. Comuni, vero, facendo... per non alimentare i luoghi comuni, cioè, sud Italia e sul nord Italia. Ma magari, certo. No, ci sono tribunali dove non c'è neanche un fascicolo arretrato e altri, questa è, come dire, ma sai, i tribunali che funzionano sono quelli in cui i diritti vengono rispettati e non calpestati. Torino, per esempio, è notorio, è stato applicato un metodo dall'ex procuratore capo, perfetto, e infatti i processi viaggiano spediti, ecco, magari sì, in altri tribunali. Ma l'importante è che i processi devono viaggiare spediti e devono viaggiare anche giusti. Comunque è arrivata la notizia adesso che il CSM ha trasferito quel giudice a Palermo. Questa sarebbe veramente la cosa più bella. Assolutamente una proposta geniale. Vogliamo fare una petizione? No, a dir la verità c'è stato anche il sindaco Orlando, credo, che investito di questo problema ha invitato il giudice a Palermo. Sì, in occasione di Palermo Città della Cultura 2018. Sì, ma è paradossale anche che debba essere invitato a Palermo il giudice trentino perché dice una frase di questo genere. Cioè, abbiamo fatto l'Italia, adesso facciamo i magistrati, come funziona? Non lo so. Comunque vedremo che cosa rischia. Noi avvocato Giordano la ringraziamo, ma la sentiamo molto, cioè molto offeso per questa cosa, si è sentito molto molto arrabbiato. Ma sì, sono offeso per non tanto per me stesso, ma per quello che Palermo ha rappresentato in questo ventennio, insomma, anche di riscatto sociale, perché comunque questo signore, che peraltro dico esercita l'attività giudiziaria, ma come sarà visto dalle persone meridionali che devono essere giudicate da lui? Sì. Insomma, crea sicuramente qualche... Il giudice non deve essere solo imparziale, ma deve anche apparire imparziale, come dicevano gli antichi. Sì. Non so se questo signore a questo punto potrà essere considerato veramente imparziale. Sì, lei dice, se ci fosse adesso da domani un imputato, come dire, anche di Salerno e non di Palermo davanti a lui, dice, ma accidentemi, come mi percepirà? Quando parla il giudice, dovrebbe essere la voce della legge. Se la voce della legge pende da un lato piuttosto che dall'altro, a seconda della provenienza delle persone, è un fatto preoccupante per tutti. Però è un'astrazione, avvocato, come tutte le cose, poi, no? Nel senso che è vero quello che dice lei, ma poi lui è una persona coi suoi limiti, probabilmente, no. Questo giudice. Ma il problema è sempre quando i limiti vengono dalle istituzioni, però. In quel caso uno è meno tollerante, perché... No, ma i limiti, guardi, ciascuno di noi non è immune da errori. Il problema però di esternare certe, diciamo, considerazioni probabilmente, sì, però il discorso che faceva Manera effettivamente al di là delle, al di là dell'esternazione, poi se uno anche non la esternasse ma giudicasse in base a quelle convinzioni è allora è grave uguale, ecco, non è ma che uno che fa il magistrato non dovrebbe avere non dovrebbe, certo, ma giustamente Leonardo ci dice che poi siamo tutti uomini o donne con le nostre debolezze anche purtroppo quindi la perfezione che chieda scusa che chieda scusa ma anche perché appunto siamo tutti uomini con le nostre debolezze ed è vero, però quando un'istituzione anche dice queste parole le leggi anche le donne? Anche le donne. No, le donne è un po' diverso, no, ne possiamo discutere. Avvocato. Vabbè, dai, avvocato, qua noi la dobbiamo salutare perché dobbiamo litigare su questo punto. Comunque, siamo viva Palermo, avvocato, viva Palermo! Stefano Giordano, avvocato di Palermo, salutiamo anche Vincino che dalla sua Mondello sta cercando Leonardo Manera in giardino. Non c'è più Vincino, ma dove è finito? L'abbiamo recuperato, so. No? Però c'è Biagio invece da Salerno, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Biagio, buongiorno. Buongiorno a voi. Che ci dice? Allora, uno, quando un cittadino fa una comunicazione al comune e comunica che c'è un abuso edilizio, il comune dovrebbe agire e abbattere il danno. Purtroppo, fatte tante volte delle comunicazioni, non è successo niente. Cioè? Lei le ha fatte? Lei le ha fatte? Con ricevuta di ritorno, con tanto di firma, di protocollo. Ma relativi a chi, scusi? Lei ha a fatto degli abusi edilizi fatti al Parco Agostello. Fatti? Fatti non... in una zona di Salerno. Cioè lei ha denunciato abusi edilizi di altre persone? Al comune, ok. E nessuno ha mai detto niente? Perché insistevano su un locale di mia proprietà. Ah, ecco. Sul terrazzo hanno fatto un appartamento, è stato comunicato al comune. Il comune non ha fatto niente, però il signore che ha fatto l'abuso è un avvocato e quindi ha tutti i termini per fare posizione e quant'altro. Beh, tutti i cittadini ce le hanno, diciamo, lui magari è più esperto. Più esperto. Prego? Tutti i cittadini possono fare opposizione, lui essendo avvocato conosce bene la legge. Benissimo, però comunque è un abuso. È un abuso che io al comune ho citato. Se non c'è la possibilità di fare il condono edilizio, e quindi non risana i danni fatti agli altri condomini, sì, quali pagano tale e quale a lui, ma lui ha una doppia superficie. No, no, ma è chiaro, ma adesso non conosciamo il caso. È rimasto tutto così adesso, È rimasto tutto così. Lei dice, ho ragione io e il comune non fa niente. E in Google Maps si vede da Google Maps, dal satellite, tutti gli abusi fatti nel parco. Però nessuno si muove perché non c'è la certezza della pena. Caro Biagio, questa è una grande verità, purtroppo, purtroppo non c'è. Sai qual è il paradosso, Ale? Che poi l'efficienza scatta nel caso della signora Giuseppina di 95 anni, nella casetta di legno. Sono ancora tormentato poi... da questa. A volte c'è l'idea che la legge abbia una mano un po' così casuale, no? Di colpo va da una parte, dall'altra, intanto certe cose non si riescono a sanare. Un po' così, quando si dice la legge uguale per tutti, non vuol dire a parità di condizioni. Ma anche in termini, a volte non con dolo, anche in maniera casuale, però c'è un'irrazionalità che ti fa cascare le braccia per terra. Assolutamente. Dai, alle 10:33 minuti dobbiamo andare alla borsa e poi ci sono tante storie, abbiamo gli italiani che stanno all'estero tra poco e tante altre cose. I funamboli. Allora, alle 10:40 minuti, io c'ho una cosa che devo dire qui dall'inizio. Ti vedo un po' intasato mentalmente. Devo dire questa notizia che da stamattina mi ha turbato, poi l'ho sentita nel giornale radio delle 10 e mi ha confortato nel doverla dire. Allora, sono stati arrestati due imprenditori, due fratelli, che facevano lavorare in nero in Calabria delle persone e le pagavano in base al colore della pelle. Cioè? E cioè, se eri bianco, 35 euro, se eri nero... Cioè in nero è tutto questo, li pagavano in nero ma anche in base al... In nero in tutti i sensi. E a me è venuto in mente, cioè quando sono stato a Robben Island a vedere la prigione di Nelson Mandela e mi avevano spiegato che funzionava proprio così lì, se eri bianco 100 grammi di zucchero al giorno ai prigionieri, se eri nero un po' nero 70, se eri nero 50, cioè il principio... più era chiara la pelle e meglio venivi trattato. Certo che siamo ancora. Vergogna! A mettere insieme tutte queste cose, no? Il giudice di Trento che denigra Palermo. Questa viene fuori un quadro dell'Italia un po' inquietante. Oggi siamo oltre. Se uno dovesse fare una foto dell'Italia dalla giornata di oggi, bisognerebbe, non lo so. No, per carità, fortunatamente. Altro che funamboli, buttati giù dalla fune. No, sì, questi buttati giù dal precipizio anche. No. Perché, cioè, dai, su. No, ma questo è oltre. Questo è proprio nemmeno da film. In una sceneggiatura ti dicono, dai, così è troppo. Li pagavano su. In nero, li pagavano, quindi fuori. E in più anche in base al colore della pelle. Mamma mia, ragazzi. Cioè, in base alla melanina cambia il cachet. È così. Il contratto melanina. Allora, bello, scusami, bello. Lei melanina quanta? No, allora facciamo 15 ridere, euro. Che è una cosa seria. Se no ci mettiamo a piangere in singhiozzi e via. Sì. Dai, le 10:41, ci ascoltate dall'estero. Adesso hai capito perché Michael Jackson si voleva sbiancare per essere pagato di più ai concerti. Bravo, Leo. Capisci? Niente, gli ho detto di non ridere. Lui non ci avevo pensato, ecco perché. Dai, se ci ascoltate dall'estero è il vostro momento. Potete scriverci al 349-238-6666 come un ascoltatore che ci ha scritto poco fa da Ginevra. Ci ascolta, ti ascoltano a Ginevra. Cara Veronica, a Ginevra. A Ginevra. A Ginevra, anche in Svizzera. Ti ascoltano, ma è il momento dei nostri ascoltatori all'estero e quindi il tormentone. Oh, Prince. Questo è Prince. Questa. È Prince, fermi tutti, è davvero Prince. Perché ti esponi così no, tanto? No, è davvero Prince. Senti. Ce l'hai messo tu, sei andato senti, di là. Altro che Eric Clapton, senti. Guardalo come suona. Ragazzi, che scena antiestetica, per chi sta guardando la diretta, veramente. Ha l'anima di un rocker, diciamo, una solo l'anima. Inguardabile. Io volevo Leo, solidarietà. Voi lo sapete, non lo sapete, lo ridico, l'ho detto varie volte, nel mio sogno della vita era essere Bono, non con la B minuscola, cioè io volevo essere proprio Bono, quello degli U2. Ho capito, in entrambi i casi era un sogno. No, ti ringrazio. Vogliamo salutare dall'estero la nostra ascoltatrice Chiara. Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti. Da dove ci parli con questa voce magnifica e squillante? Io vi parlo dall'Olanda. Sì. Amsterdam, per la verità sono in un paese fuori Amsterdam, ad Hilversum. Ah, sei quella che se la tira, come quando dico vengono da Milano, invece sono di Inzago, no? Diciamo che vivo ad Amsterdam e poi per lavoro mi sposto ogni mattina a Hilversum. E che fai a Hilversum? Allora, io lavoro, cioè, sono una stagista in una grande multinazionale di abbigliamento sportivo, ora non faccio nomi. No, però puoi anche farlo, cioè non è che. Dove lavoro? Lavoro per la Nike. Ah, la Nike. Sì, l'avevamo intuito. No, a noi ci interessa perché così puoi mandarci un sacco insomma, di. Ci mandi un io ho il 44, per esempio, di scarpe. Ma parliamo. Il 44 è anche taglia di campionario, quindi. No, ma no. Non ti interessare a lui, Chiara, interessati più a me, facciamo una cosa femminile. Io voglio un paio di zoccoli olandesi, quelli di legno, ce li puoi mandare qui. Chiara, come al solito ti metti in un contesto che non puoi controllare, no, però allora, quanti anni hai? Sei molto giovane, mi sembra, dalla voce. Ho 23 anni. Oh, che bello. E che conduci una vita dissoluta ad Amsterdam, come nell'immaginario collettivo, subito, appena uno prende l'aereo dice eccola là. No, per me lei non fa... Sei una ragazza, no, secondo me, proprio in regola al 100%, o no? Diciamo che poi uno si adatta al modo di vivere olandese, che non è così tanto dissoluto come sembra. Diciamo che è una cosa da turisti, ecco. Sì. Arrivare a vedere Amsterdam come la meta per la dissolutezza, ma infatti lo si percepisce già dall'aereo, dall'Italia all'Olanda. Li vedi strafatti in pelle, no, lì tutti si va carichi, ad Amsterdam. Dai, che adesso andiamo. Dai, davvero così. Da qualsiasi regione io parta, cioè che parte dalla Toscana o dalla Lombardia. È un classico questo, si sa. Poi nell'età, capito, post-adolescenza, ciao proprio, aiuto. Hai trovato un amore olandese lì ad Amsterdam? No, l'amore italiano. E lui ti aspetta qui in Italia? Lui mi aspetta in Italia, ci saranno dei problemi grossi, delle crepe nel vostro rapporto, perché vedendovi così poco probabilmente è un rapporto Leonardo destinato a finire. È Leonardo Manera, è così, Leonardo. Ogni giorno vuole proprio rovinare, entrare nella cristalleria con un elefante e sfasciare tutto. Abbi pazienza, non, ce lo teniamo così. Possiamo trovare a vicenda, non ci sono problemi. Pensate che un anno fa quest'ora ero in Brasile, quindi ero anche molto più lontana di tutti, quindi confronto Amsterdam. Beh, tra il Brasile ed Amsterdam ci passa una bella differenza. Dove stai meglio? Dove Oddio, ecco, questa è una bella domanda. Per il clima, per il cibo, per l'atmosfera in Brasile. Per tutto il resto dell'organizzazione, la sicurezza, il lavoro, l'affidabilità, di sicuro l'Olanda. Beh, un po' come la differenza tra Trento e Palermo, no? Un po' sì. Allora, Chiara, qui in Italia si parla di legge elettorale, argomenti interessantissimi che tu seguirai tutti i giorni su Radio 24, c'è una passione tremenda. Io appena finito devo leggere tutto sulla legge elettorale adesso, perché sennò non posso arrivare fino al pranzo. Ad Amsterdam, in Olanda, di che si parla? Se accendi la TV... Ma... In Olanda in realtà si parla di tante cose simili all'Italia, devo dire. Bene. In questo periodo si parla di web tax, dell'alerta terrorismo, si parla tanto dell'uragano, degli uragani che hanno colpito le isole, perché alcune sono anche di pertinenza olandese. No, si parla delle uova in feste, perché certo. Appunto qua c'è proprio il caso, no? Quello delle pieponine partiva proprio qua dall'Olanda. Anche se l'Olanda dà la colpa al Belgio e il Belgio all'Olanda. Quindi niente omelette, niente frittate, è finito tutto per un periodo. Senti, basta. Mi sono accorta da sola che arrivata al supermercato il banco delle uova era completamente vuoto. Insomma, hai detto, ops, che è successo? Sì, monteremo qualcos'altro. Comunque hai smontato Alessandro Milan, che sperava tanto di dire, vedi come sono interessanti invece i giornali olandesi, adesso no, mi trasferisco in Olanda. Vero, invece scusa, ti attacchi, sono come uova. Questi. Ma non è vero il problema delle uova, il terrorismo solo internazionale. Solo perché non stanno discutendo la legge elettorale, ma se no anche lì ci sarebbero, facciamo proporzionale. Ma su, dai, no, non credo. No, addirittura ieri è stato arrestato proprio ad Amsterdam un boss dell'Andrangheta, un narcotrafficante da anni, quindi proprio... Ci distinguiamo un po' in tutto il mondo. Chiara, però noi ti dobbiamo salutare perché siamo già in ritardo e ti mandiamo un grosso abbraccio ovviamente ad Amsterdam. Guardate che nel frattempo ci hanno scritto, ci ascoltano in questo momento da Riyadh, Arabia Saudita, segnare il numero, domani lo chiamiamo. Ci ascoltano in questo momento da Phuket, Thailandia, ecco, signori. Questo interessa. Ci la povera anche Veronica la foto, vorrebbe venire in vacanza a Natale. Ci mandano anche la foto Piero e Ming, che dalle fattezze è proprio una thailandese. Voi fate questa trasmissione per interesse privato. Assolutamente. È evidente. Non cerchiamo nemmeno di camuffare. È il momento del traffico. I funamboli. Fantastico, ragazzi, che mondo globalizzato. Ma viene ci ascolta da tutto il mondo. Un'altra ascoltatrice da Berna. Vi chiamiamo tutti, vi chiamiamo tutti. Cari ascoltatori, cara Veronica, è venerdì e io vedo già ci è venuto a trascurare. E benvenuto buongiorno a tutti gli ascoltatori, alla dottoressa Gentile e anche al dottor Milan. Buongiorno, sono Geometra Sebastiano, ecco, sindaco di questa piccola cittadina che sono venuto a consigliare di venire a trovarci. Questa come si chiama? Punta Minchia, che è una bella cittadina, il posto ideale per fare una bello fine settimana senza stresso, senza relasso, perché a Punta Minchia non c'è centri commerciali che si spendono soldi inutilmente, non c'è pizzeria che si mette qualche chilo, a Punta Minchia non c'è una minchia, l'avevamo intuito. È il posto ideale per un weekend senza stress e rilasso. Allora, si arriva il venerdì sera, si va subito a prendere la camera al bed and breakfast da Pippo. Pippo, un mito, Pippo. Ha due camere a tema. C'è la camera vista mare, perché sopra il letto c'è un disegno del mare fatto dalla figlia di Pippo. E poi c'è la camera vista letto, perché appena entri vedi sto letto bello con ste materassi a molle, le butti sopra che è tutto molle, è una goduria. Poi al venerdì sera fai una bella cena da Pippo, che Pippo è un cuoco sopraffino. Sì. Cucina sti spaghetti in bianco, che sono una meraviglia. No. E la sera dopo vai a dormire leggero. Poi sabato fai la visita a Punta Minchia, che c'è questa sciata polverosa. Da una parte della sciata c'è il negozio di dischi della signora Lauria, che ha tutti i dischi di Abbano. La cartoleria. Romina, c'ha tutti i dischi Abbano, Romina, Abbano con Romina, senza Romina, tutti, Abbano e Romina, Abbano. Michael Jackson. Dall'altra parte della sciata c'è il negozio di cesti di vimini della signora Lauria, che sempre c'è sto cesto grosso, che dentro il cesto c'è i dischi di Abbano, Romina, ma c'è anche un disco di Michele Zarrillo. Il titolo è Michele Zarrillo canta Abbano e Romina. Ecco, mi sembra riuscita. È appassionata. Poi di sera fai una bella grigliata da Pippo, che lui prende sti spaghetti in bianco, fa sta grigliata di spaghetti. Li griglia gli spaghetti in bianco. È una cosa meravigliosa. E domenica si comincia con una bella colazione da Pippo a base spaghetti e poi, siccome a Punta Minga non c'è la chiesa, si mettono le sedie in sciata e per la messa di Don Dino Lauria, che siccome a Punta Minga Lauria, siccome non c'è la Bibbia neanche, e lì allora se le inventa lui le parabole. Per esempio, ecco, viveva in un villaggio un uomo che aveva 100 pecore. Un giorno una delle pecore si perse, si smarrì, la pecorella smarrita. E allora il pastore disse: ebbene, ne ho ancora 99. Era soddisfatto così. Che bella parabola! Questo è un punto di vista interessante. È una parabola ottimistica. Ma ha una morale questa: è che bisogna accontentarsi nella vita di quello che ti dà il destino. Questa è la morale. E poi si riparte alla volta delle cittadine con mezzi di fortuna. E ricordatevi che chi va al mare trova il mare, chi va in montagna trova la montagna, chi va a Punta Minchia non trova una minchia. Ecco, questo mi sembra giusto. Beh, io non lo so, è apparso qui Guido Scotti dall'altra parte del vetro, credo per un consiglio del weekend. Mi sa che va, no? Mi sa che va, lo vedo molto soddisfatto. Sei convinto? Ma tu sei andato o no? Non volevi andare lo scorso weekend? Io non ho ancora weekend? Capito in quale regione si trovi questo posto. È un luogo ancora che vuoi vedere le coordinate esatte. Sindaco, è una però, regione a statuto speciale. Capisce che ti arriva con mezzi di fortuna. Con mezzi di fortuna. Vabbè, Guido, mettiti in cammino e poi ti faremo sapere. Invito anche Guido Scotto a venire in questa bella cittadina, la dottoressa Gentile, dottoressa Mila e tutti gli ascoltatori dei Funaboli. Va bene, tutti Funaboli. Funaboli. Funaboli. Cosa ho detto io? Funaboli. Vabbè. Allora, dai, c'è un ascoltatore, Cesare da Pisa. Abbiamo un minuto per chiudere. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Complimenti per la trasmissione. Volevo raccontare la mia storia di abuso edilizio. Storia simpatica. A casa di mia nonna, in un piccolo paesino provincia di Pisa, c'era una capanna che, devo essere sincero, non sono sicuro che fosse abusiva, una capanna di lamiera, però sono convinto di sì. Era per una buona percentuale sulla nostra proprietà, sul nostro terreno. Vado nel comune, gli faccio vedere la cosa e, insomma, l'addetto comunale tra i denti mi dice: guarda, facciamo così, noi stiamo a fare tanta confusione, vai lì e buttala giù una sera. Ma no, ma come? Ecco, incendiala. Ma Cesare, ma no, vedi, ma no. Poi dici: non ci sono i fondi per buttarle giù. Allora, guarda, io voglio lanciare questa idea, ragazzi. Funamboli, @radio24.it, raccontateci il vostro abuso edilizio o quello del vicino. O quello, quando avete buttato giù l'appartamento del vicino nella notte anche. Scrivete una mail, ditecelo e racconteremo così questa Italia di piccoli andate o grandi abusi. Andate a Punta Minchia, raccogliete le idee, puntate, visto che non c'è sindaco, niente da fare, scrivete. Ciò, che problema c'è? Ma c'è qualche abuso? Ma il nostro non c'è la minchia, quindi non c'è anche abuso di niente. Abuso no. Dobbiamo salutare tutti: Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi, Elisabetta Fusconi. Funamboli torna lunedì.